Allora, Cruciani, tu sei nato bruttissimo, sai benissimo cosa vuol dire vivere una vita da ragno, cioè da uno brutto che le fighe non sono fine, eccetera. Però cosa è successo nella tua vita? Che tu sei riuscito a diventare famoso, va bene? Allora è ovvio che sei brutto come un cesso, però da famoso hai una chance. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Cruciani, lei non mi è molto simpatico, però seguo la zanzara dalle 6 del mattino a mezzanotte alla sera. Ma non potete iniziare alle 18, che c'è già gran voglia di zanzara. Certo, Parenzo, che non si capisce più niente ormai, eh. Se anche Celentano dice di essere con Salvini, beh, amico mio, o è completamente... Ma sì, ma ragazzi, ma di che parliamo? Dai, su, bisognerebbe anche, come dire, non stare troppo appresso a queste cose. Io capisco Salvini che deve dire ringrazio Celentano, eccetera, ma Celentano ormai dice un giorno una cosa, un giorno l'altra. Adesso dice che il problema principale non sono gli 80 euro, non è, no, l'economia, eccetera, ma la sicurezza, perché ha visto una macchina 180 investire un gruppo di persone. Dunque dice, beh, mi sto avvicinando a Salvini. Ah dai, su. Inizio a pensare a Salvini. Si potrebbe rispondere tranquillamente e sti cazzi. Bravo. Hashtag. Vabbè, intanto la notizia di oggi è sicuramente l'antimafia, non frega nulla a nessuno, niente, a quelli che sono all'ascolto, cosa fa la commissione antimafia, non frega niente a nessuno, ti posso assicurare, non frega niente a nessuno, comunque vabbè, ne parliamo, perché ne parliamo. La Bindi che a un certo punto si è inventato un ruolo, due giorni prima delle elezioni, dice, questo qua è impresentabile. Vincenzo De Luca è in questo elenco per concussione continuata. Ora, la concussione continuata, se non vado errata, non è nei reati previsti dal codice dell'antimafia, o mi sbaglio? C'è, perché lo consideriamo un reato spia. Cioè, lo consideriamo un reato spia. Tu capisci a che livello siamo, no? Spia, cioè, di cosa? La spia di io conosco, no? La spia della mancanza dell'olio della macchina. Su, ragazzi, comunque, allora, oggi un signore del Partito Democratico ha detto che la Bindi, Carbone, un importante renziano del Partito Democratico, un deputato, ha detto che la Bindi va contro la Costituzione. Allora cacciatela dal partito. Cioè, cacciatela su, se va contro la Costituzione, cacciatela dal partito. L'unica eccezione, certo che è incredibile pure questa cosa, le liste del PD sono in regola, l'unica eccezione è De Luca, cioè il candidato in Campania, secondo Rosi Bindi, presidente della commissione antimafia, esponente del Partito Democratico, è l'unico che dovrebbe essere fuori dalle elezioni. Candidato alla presidenza della regione Campania, caso assolutamente noto, nel quale, come ho detto prima, noi non abbiamo inteso approfondire, perché lì non servivano ulteriori elementi di conoscenza. Le liste del Partito Democratico però sono liste, obiettivamente lo dico da questi dati, nei quali non si riscontra nessuna candidatura che non sia in regola con il codice, salvo il candidato presidente della Regione Campania. Sono nuovamente ieri sera Renzi diceva che De Luca è un sindaco straordinario, farà addirittura aumentare il PIL, che non è il PILU, però. Da segretario del PD, le dico, Enzo De Luca lo hanno scelto le primarie del PD, Enzo De Luca è stato un sindaco a Salerno straordinario, straordinario. Se il Mezzogiorno fosse stato governato come è stato governato Salerno, fate i conti delle opere pubbliche che lui ha sbloccato e guardate le opere pubbliche nel Mezzogiorno, ci sarebbe un PIL in questo paese più alto tra lo 0,5 e l'1%. Allora, il Rom che si è autodenunciato, il padre di uno dei ragazzi dentro la macchina che ha travolto quella straniera, insomma quella filippina. Quella filippina, e ucciso quella filippina e ferito altre persone, dice che lui ha 24 macchine intestate, ma sono tutte vecchie. Le risultano intestate 24 auto. 24 auto intestate. E come ha fatto a comprare tutte queste auto? Sono tante. Ma sì, un po'. C'è tante perché c'è lì, perché qua è tutte macchine vecchie, non mica che nuovi. Cosa dice Alino? Ormai abito a Roma 40 anni. Sì, sono tutte macchine vecchie, beh te credo, c'è 24 macchine intestate, cioè alcune risalgono non so quanti anni prima. Allora, la cosa incredibile è che ieri dal debito questo tizio era evidentemente sbronzo. Cioè era sbronzo, si è autoaccusato di aver commesso un reato, cioè di aver ucciso qualcuno, eppure era a piede libero. Cioè non c'era un carabiniere che andò di senta, amico mio, venga qua. Sì, allora mi senti? Sono Bato. Sì, io so che è Bato. Io sono Paolo, prego. Sì, va bene, ti sento male, ti sento poco. Io la sento bene, Bato. Pronto? Dico, lui la... Parli pure va serenamente. Aspetta un attimo. Sì, sono ancora evidenti i segni della sbronza dell'altra sera. La festa, la festa. Sì, il posto mi dà la festa. È ancora libero, è ancora libero. Cioè, è incredibile, questo in televisione, libero di scorazzare, pur essendosi praticamente autoaccusato di un omicidio. Questa è l'Italia, questa è l'Italia, Allora, questa mattina la signora Diana Pavlovic, esponente della comunità Rom, ha detto che la propaganda di Salvini è simile a quella di Hitler. Però, insomma, diciamo che incitazione all'odio, la propaganda che fa è molto simile a quella che è successa in Germania negli anni 30. Cioè, molto simile a Hitler, insomma, la propaganda. La propaganda è quella... Berlusconi ieri da Porro a un certo punto ha raccontato una storia incredibile, che praticamente Berlusconi ha addomesticato, secondo questo racconto fantasioso, ha addomesticato Gheddafi. Senti, io avevo addomesticato Gheddafi. Che cosa? Addomesticato. Ma Gheddafi... Presidente, non si dice addomesticato. No, l'avevo detto a lui, gli ho detto tu sei una bestia e io ti devo addomesticare e lui aveva consentito. E poi la storia dei cammelli, cioè gli avrebbe regalato 3 cammelli che ancora sono a Tripoli. Perché lui era un personaggio particolarissimo, mi ha regalato di quelle cose. Pensi che una volta, una volta mi ha regalato 3 cammelli, padre, madre e figlio. Ecco, 3 cammelli. 3 cammelli. E ce l'ha d'arco, devo cammelli. Ancora ritirarli dallo zoo di Tripoli. Comunque, no, devo ancora ritirarli. Ma torniamo a bomba su De Luca, perché in realtà c'è, abbiamo subito l'audio, la risposta di De Luca alla Bindi, che lo ha dichiarato praticamente impresentabile, e De Luca dice la più impresentabile è lei. Un dibattito pubblico nel corso del quale io intendo sbugiardare questa pia donna di potere, tale Rosy Bindi, e dimostrare che l'unica impresentabile vera è lei, che si appoggiava quando doveva prendere i voti su notabili campani fra i peggiori esponenti della clientela politica nella sanità pubblica campana. Mamma mia che bordata, c'è il traffico, poi torniamo 800 24 00 24, se stanno a scannare da soli dentro il PD. traffico veicolare. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta La Zanzara. Iniziamo con le telefonate, 800 24 00 24, stiamo cercando per Mario e Monti quel fetente di Vittorio Sgarbi che voleva tuonare, oggi ci siamo sentiti al telefono contro la Bindi, ma andiamo a Salerno appunto, la città del sindaco di Salerno, candidato del PD, da Domenico, buonasera. Buonasera, salve. Dimmi. Senta, io volevo soltanto fare un commento su questa impresentabilità, questa categoria enucleata dalla Bindi oggi, che mi sembra veramente sconcertante. Insomma, a me hanno insegnato che o si è eleggibili o non si è eleggibili. Questa impresentabilità in pompa magna presentata a poche ore dal voto, sulla base di rinvia giudizi, però i giudizi sono ancora in corso, è secondo me soltanto una categoria pericolosa che non porta assolutamente a nulla. Ma non se l'ha inventata lei la categoria, però, scusi. So che non se l'ha inventata lei, per carità, ma io quello che non comprendo è questo. Cioè, sostanzialmente, dire che una persona è impresentabile significa soltanto gettare un'ombra su questa persona. Ma non è un'ombra. Quando è che è un'ombra? Perché? Perché cioè, scusi, quei 17 nomi, scusa, perché sennò si perde di vista il discorso. Sì. Quelle 17 persone di cui si sapeva già, in questi, molti di questi già si conoscevano dai giornali, perché bastava leggere i giornali, altro che quella cazzo di commissione antimafia, bastava leggere i giornali e si sapeva di molti di questi. Non è che sono impresentabili per la Bindi, è che a vario titolo hanno avuto o delle condanne in primo grado oppure sono indagati. Un momento solo, però chiedo scusa. Fine della trasmissione. Allora, ragazzi, però torniamo su con i piedi per terra. Allora, no, fermo lì. Allora, Domenico. No, questo è il punto. Sì, ma ragazzi, volete stare zitti un attimo. De Luca è stato inserito nella lista degli impresentabili. Il candidato del Partito Democratico perché è stato prescritto per la vicenda, per una vecchia vicenda, per concussione continuata. Lui si è opposto alla prescrizione perché vuole la soluzione piena. A me non me ne frega niente di De Luca, cioè non me ne frega assolutamente nulla. Il Partito Democratico è di un'incoerenza su De Luca spaventosa. Certo. Se ci fosse stato un candidato di Forza Italia lo avrebbero massacrato in altri tempi. Il punto è un altro: lui si è opposto a questa prescrizione ed è per questo che viene candidato dagli impresentabili. È una cosa ridicola ed è un'operazione politica della Bindi contro, per avere un suo spazio, e contro alcuni nemici politici. È talmente evidente. No, questo non credo, Massimo, questo credo io. Massimo da Roma, vai, Massimo. Oh, buongiorno, vorrei tornare. Sì, mi sente? Dimmi, Massimo, vai. Sì, allora io vorrei tornare sul discorso dei Rom e rivolgermi. Sì. Ecco, ma non sono di quelli che però li vorrebbero bruciare, Allora. No. Io credo che Salvini oggi non alimenti l'odio verso i Rom, ma semplicemente raccolga l'odio dalla gente. Lui raccoglie le parole, i pensieri della gente, li ripropone e prende voti. Chi è che ha creato l'odio? Sì. È la sinistra. Perché quando l'85% la sinistra è governata Milano per 20 anni? Guardi che però io devo segnalare una cosa, Massimo, che i campi Rom non è che quando la destra, il centrodestra era al governo sia del paese che nelle città, meno siano male, scomparsi all'improvviso. Meno male. Cioè sui Rom, sulla proliferazione dei campi Rom, sull'illegalità spaventosa che c'è dentro i campi Rom, nessuno è esente da colpa. Bravo, centrodestra e centrosinistra, uguale, identico. Meno a Milano, male, in tutti gli anni in cui è stata la Moratti sindaco, c'è stata la Moratti 5 no, anni prima anche prima, e anche prima Albertini, non è successo niente di nuovo. I campi Rom sono spuntavano come funghi, per cui non c'entra niente qui la sinistra o la destra. Certo, poi nei confronti dei Rom ci sono le associazioni che spesso sono in alcune città più vicine alla sinistra che ci mangiano sopra, non c'è dubbio. Però guardi che con Alemanno i campi Rom c'erano lo stesso a Roma, uguali, identici. Non è cambiato nulla, Massimo. Però non è cambiato niente. Non dicevo questo. E allora? Allora dicevo un'altra cosa. Sono d'accordo con lei, la Lega cosa ha fatto nei 10 anni di governo? La Bossi Fini, non sono venuti gli immigrati con la Bossi Fini? Sì, ma lasci perdere, adesso stai parlando dei Rom adesso, Massimo, stai parlando adesso dei Rom. Adesso parliamo dei Rom, non parlo dei campi Rom. Io dico del fatto che se la gente si lamenta, tu non puoi risponderle, tu sei un razzista, il tuo problema neanche. No, ma io sono d'accordo con te su questa roba qui. Però questa è la sinistra snob e salottiera. Io sono d'accordo, per esempio, io sono la Meloni. Allora uno si sente frustrato? Sì. E dopo 10-15 anni che nessuno rimuove il problema. No, ma io capisco. Dice tu sei un razzista, con te neanche ci parlo. No, ma io capisco, per esempio, di dire beh, io li voglio bruciare. Beh, e sì. Non è bello, eh? No, ho capito, Massimo, grazie. Andiamo a Savona, Antonio. Mi sente? Dimmi. Buonasera. Senta, io a proposito di Roma avrei un'alternativa, però l'alternativa che lo deve fare un governo che va al governo, quindi un governo che dice i campi Rom si vengono levati e vengono portati tutti su un'isola Pianosa, diciamo. Cioè lei vuole deportare, lei vuole deportare tutti i Rom a Pianosa? Sì. Cioè deportiamo tutti i Rom, tutti i Rom all'isola di Pianosa, come succedeva, che ne so, con gli oppositori del fascismo durante il fascismo. Cioè portiamo tutti quanti in un'isola, in alcune Ventotene, altre isole ancora, giusto, Antonio? E me vengono guardati però, Cioè lei dice... Perché non mettiamo attorno all'isola, perché non mettiamo anche degli squali? No, le motovedette bastano. Ah, bastano le motovedette. Cioè lei farebbe una specie di carcere a cielo aperto nelle isole, in alcune isole. Bravo. Un cazzo, lo dice lei. Non è quello che vogliono. Cioè lei dice mettere appunto, disperderli in alcune isole famose e poi mettere intorno delle motovedette così che non possano scappare. Ho capito bene, Antonio? Sì, ma tanto a delinquere vanno qua. Almeno se vanno lì a delinquere, sono tutti tra di loro. Benissimo, ho capito perfettamente. Maurizio da Roma, vai Maurizio. Sì, buonasera Cruciani. Dimmi. Prima domanda a lei, qual è il giudizio che ha sui pedofili? Sui pedofili. E poi invece a Parenzo volevo fare Ma che vuol dire sui pedofili? Scusa Maurizio. Sui pedofili. Ma che giudizio che vuole? Sono delle persone che hanno dei problemi. Ma che giudizio vuole che dia sui pedofili, caro amico mio? Maurizio, è gente che quando... Ma perché quando arrestano... un prete principalmente pedofilo e poi non si dice che è anche gay. Vabbè, ma quello è un altro discorso. Ci sono preti pedofili gay e preti pedofili non gay che vanno no. Ma lei sarà stato importunato, no, da ragazzo? No, mai, veramente mai. Non da sono pedofili? No, mai. Per fortuna no. Beh, ma non è che uno per parlare... Ma l'identità tra pedofili e gay, questo non possiamo... Cioè, ma secondo lei invece c'è una vicinanza tra pedofilia e omosessualità? Sempre. Cioè i gay sono anche un pedofilo, ma guardi, cioè, chi va con le ragazzine di solito va con ragazze che non dimostrano come, cioè, no, ma perché siccome molti dicono questa stupidaggine che i gay sono pedofili. Certo che sono pedofili, hanno avuto un'iniziazione da ragazzini e sono stati avvicinati. Parenzo, rispondi tu, io non ce la faccio più. Parenzo, volevo dire un'altra cosa invece, che lo sento molto garantista su questo fatto dei Rom. Però io in passato l'ho sentito parlare male di alcuni popoli, parlo dei palestinesi, che non lavorano, non stanno in un territorio che non è loro. Che rubano, che sono, non possono muoversi e devono essere e rompono i coglioni, però stanno, gli hanno costruito. Cioè tu stai dicendo che Parenzo con i palestinesi dice certe cose, che fanno scudo con i bambini, fanno scudo dei bambini. Allora Parenzo non era razzista, siccome Parenzo ha dichiarato pubblicamente che è un razzista. Il sionismo, io volevo vabbè, ho capito perfettamente. Ci dobbiamo fermare adesso, Maurizio. Qui non è che possiamo andare per le lunghe. Giornale radio 800 24 00 24. Ragazzi, veramente siamo messi male. Siamo alla frutta. Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato ad aspettarlo ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo mentre il treno va. Ogni domenica alle 11 nella stazione di Radio 24. Smau ti aspetta a Bologna. 4-5 giugno, Bologna Fiere. Smau.it vi presenta La Zanzara. guarda, io ti consiglio una cosa: carica il podcast, ascoltati e sentirai quanto sei noioso. Berlusconi dalla D'Urso oggi pomeriggio, mentre impazza ancora la vicenda Rom, mentre impazza la vicenda Impresentabili, con uno scontro pazzesco all'interno del Partito Democratico tra De Luca, la Bindi, tutti contro tutti, la Bindi accusata di aver fatto tutto da sola, e PD contro PD, un grande casino. Due giorni prima delle elezioni, proprio nell'ultimo giorno di campagna elettorale, Berlusconi dalla D'Urso dice nel pomeriggio che è l'unica che non si è fatto. Parenzo, credimi, ha detto questo, credimi. Non è vero. L'unica che non c'è stata, cioè praticamente ha detto: mi sono fatto tutte, forse a Mediaset, non so altro, mi sono scopato tutte tranne la D'Urso. Io non posso ripetere una cosa che forse tutti sanno. Cosa? Che Barbara è l'unica che non c'è stata. Adesso è noto, nel senso che mi ha corteggiato in maniera molto galante nel 77 e io in maniera molto educata ho rilanciato, ho rifiutato l'invito e abbiamo, quindi siamo diventati amici. Siamo rimasti amici. Beh, forse la mia è stata un'interpretazione estensiva, però, no, dice, però, sì. Però è così, sì. Però è così. Cioè, questo... Infatti il sottotesto è quello, sì. Allora, Franco da Roma, vai, 800-24-00-24, Franco. Buonasera, Cruciani. Dimmi, dimmi. Senti, io volevo parlare dei Rom. Vai, vai con i Rom, tutti vogliono parlare dei Rom, andiamo con i Rom, vai. Ho capito, volevo parlare di Rom, come Parenzo, che ne parla sempre bene dei Rom, lui, visto che è ebreo, e parla male dei palestinesi perché hanno rubato tanta di quella terra ai palestinesi. Adesso, però, scusami, Franco. Franco, il legame... Io come faccio a parlare bene di Rom dopo quello che fanno? Come fa a difendere Parenzo? Come fa? Se tu lo butti in mezzo alla monnezza, Parenzo, tu lo sai se è carta, se è vetro, se è plastica, ma mezza merda ci va bene, Parenzo. Guarda, lì c'è spazio. No, ma bene. Scusa, spiegami perché. Allora, spiegami, guarda, perché. Non c'è alcun legame. Dovrebbe, se noi facciamo un referendum, stai pur sicuro che Hitler ritorna, Mussolini ritorna, che li stermina tutti questi qua. Che cazzo ce dobbiamo fare noi di questa gente? Allora, fermi tutti. A che serve? A che serve? Dunque, tu che, servono? Tu che cosa ti, come dire, cosa ti immagini, cosa ti auspichi, cosa sogni? Sogni la distruzione di tutti i Rom? Sì, proprio non ci devono più esistere. Devono essere no a metterli su un'isola, a spenderci i soldi. E che perché devono metterli su un'isola? Fanno un albergo, mandarci in ferie su un'isola. Dopo io ho lavorato un anno, voglio andare in ferie, mi voglio divertire e voglio andare su un'isola, non voglio essere rotto i coglioni. Capito? I Rom mi mettiamo sull'isola, pure sull'isola, poi gli diamo l'isola, gli diamo tutto. E che fa? Niente, proprio via, terminamoli, levamoli, mettiamoci in mezzo pure Parenzo, perché sennò vedi che fa, quelli come Parenzo, i difende, capito? A me è arrivata l'acqua da pagare, la luce da pagare, e se la pago me la stacca, da loro no, lui staccano un cazzo, capito? Gli danno. Lei dove abita? Lei dove abita? Vicino a un campo Rom? Sì, vicino, vicino, verso Ciampino. C'è San Campo Rom a Ciampino, capito? Mi pare ma più... Se a me stasera organizziamo qualche cosa da lei e lì, andiamo a dar fuoco. Andiamoci, io sono il primo, porta la bandiera. Capito? Beh, Franco, diciamo... Lei praticamente... Io voglio proprio fuoco, io voglio le vacche, non servono, sono inutili. Non pagano tasse, fanno tasse. Scusa, io adesso mantengo la calma. Che ce famo? Mantengo che la calma, fa, ma vorrei mantengo la calma. Tanto vorrei dico, capisci, cazzo, non me va manco di parlarci con te. Tu capito? Sei che cazzo un... ti difendi? Che tu ti difendi? Sei che tu... un razzista, coglione. So, di più. Facciamo un referendum, vediamo chi ma vuole Mussolini, chi ritorna Mussolini. Ma che c'entra lì? Allora sono ebrei e questi sono peggio degli ebrei. Capito? Sono peggio, almeno ebrei. Tu verrai denunciato. Aspetta. Tutti loro stanno. State zitto, Marè, che tu ti ho detto, tu ci sbazzi bene in mezzo alla merda. Tu, ma perché non ci vai a vivere lì in mezzo? Capito? Abiti a Roma, bravi, abiti in una bella denuncia. Casa, 200 metri di casa c'hai. Capito? Però il porco Dio c'hai no, sempre, no, fermo. Senti furti, c'hai la porta blindata, corazzata, c'hai i vetri blindati, c'hai. Vedrai quando arriva la denuncia per istigazione all'odio, quanto ridi, coglione. E ancora i difendi, sti quattro zozzi. Vedrai quanto ridi. Ti dovresti venire con me stasera, quando ti viene la polizia. attento, casa, fermo, ragazzo, ragazzi, vuole stare. Non ho capito niente. Allora, Franco, però mi sembra che tu stai esagerando un po', eh. Ma che stai esagerando? Io ho detto la verità. Quando uno, allora tu guarda, la dici, non esageri. No, Franco, abbi pazienza. Io non ho mai sostenuto che bisogna, come dici tu, andare a dare fuoco ai rom. Io dico perché? Ma come perché? Ma che vuol dire perché? Io dico semplicemente. Ma hai sentito ieri a Canale 5 che la madre? No, figlio mio, presentati, tanto sei minorenne, andiamo dai carabinieri di Cazzalotti, tanto sei minorenne, capito? Tanto se coprono dietro a quel fatto, capito? E non gli fanno niente. Se a me mi trovano a rubatezza al supermercato, mi denunciano, capito? Anche allora. Mi denunciano. Allora, guarda, però, Franco, tu hai sostenuto. Se hai di fare il pirla e il gradasso, quando riceverai la visita della polizia per istigazione all'odio, non alimenta l'odio, se l'alimentano da soli quelle persone. Se alimentano da soli, non alimento io l'odio. Lei capito? Ha detto non delle cose talmente graffi. Ma perché ti porti dentro casa? Ma perché non gli dai di mangiare? Ma perché non gli dai di mano? Ma perché? Ma ce ne affanculo, vedi? Ma non stai da girare. Fermo, abbiamo sentito. Io non ho capito, Franco, non ho capito una cosa, Franco. Tu se potessi... Ma io lo denuncio questo, se potessi, ma lascia perdere le denunce. No, se potessi... Se tu potessi andare... Vabbè, vabbè, d'accordo, paga, vabbè. Italiani, sì, italiani. No, ma non devi bestemmiare, Franco, noi. Dai, no, devi... no, noi dobbiamo pagare. Franco, tu paghi tasse, perché sei una merda razzista e paghi per quello che è una merda di parlare con te, capito? No, io non ho capito, fermi tutti un attimo, dovete stare fermi un attimo, hai Franco. Hai detto delle maialate. E vabbè, lo denuncerai, lo denuncerai, io voglio capire una cosa, Franco, che mestiere fai? Non ho capito, che mestiere fai? Fai il tipografo. È il tipografo. Dunque, tu vorresti andare armato a bruciare i campi rom, giusto? Sì, a dargli la pulita. Come ha detto ieri Bonanno, bisogna bruciarli, però non fagli uscire, perché se no si fa uscire tutto cazzo. Bruciamoli con tutti dentro. Però scusami, Franco, abbi pazienza. Hanno ammazzato la vita umana, hanno ammazzato la signora. Ma non è che l'hanno ammazzata. Ho capito, ma non è che l'hanno ammazzata deliberatamente. Tu stai dicendo un'altra cosa. Come l'hanno ammazzata deliberatamente? Ma no, ma hanno fatto dentro un paese, sei ospite dentro un paese, ti danno ma sono italiani. E poi fai delinquente. E come l'hanno ammazzata? Che vuol dire? Come te l'ha fatto? Io capisco che tu vuoi semplificare le cose e va benissimo, per carità. Io voglio capire una cosa: ti rendi conto che tu hai sostenuto l'idea che bisogna sterminare i rom? Oggi se tu passi su una corda lunare vicino Ciampino, li trovi là. Oggi c'è stata una fumata, stava a bruciare i gomme. Quello succede, purtroppo succede. Purtroppo succede, non dovrebbe accadere, purtroppo succede. Robe. E tu prova a accendere il fuoco e poi guarda se ti arriva la pulizia. Ma sì, ma non c'è dubbio, ma questo l'abbiamo già detto, l'abbiamo già detto. E allora loro hanno libertà di fare quello che vogliono, perché? Ho capito, ma da qui a sterminarli, no, c'è uno... Ma che servono? Tu mi fai capire, perché i topi... Ma che vuol dire che servono? Perché i topi devono essere sterminati, a che servono? I topi? Loro sono come i topi, tu stai dicendo. I rom sono come i topi, peggio dei topi. Peggio. Vabbè, ragazzi, io di fronte a questa cosa qui non posso dire più niente. Cioè, non si può dire più niente, Franco. Che vuoi dire? Parenzo, capito, loro sono peggio dei topi. I topi si mangiano i fili, loro se rubano i fili, se rubano le macchine, se rubano tutto. Se tu abiti vicino al campo rom, lo sai, andresti allora, al manicomio. Questo signore qua. Questo signore, questa merda. No, beh, Franco, adesso lascia parlare. Franco, lascia parlare. Questo signore si pentirà di quello che ha detto, perché ha delle cose talmente gravi sugli ebrei, sugli zingari, sul bruciare, che pagherà tutto fino in fondo. E i soldi io non ne voglio neanche una lira, perché non me ne frega nulla a me. Li darò alle cooperative. Ma questo qua, viva Dio, fino a quando io vivo. Vabbè, ma non esagerare adesso, dai, su. È una merda, è un uomo di merda. Facciamo come l'altra volta che dobbiamo dare il 5 per 1000 all'associazione di Roma, no, vero? Dai, dei devolvi, non li posso vedere, io non li posso, tu sei mazzata. Sei una merda umana. Se tu vai all'estero ti devi comportare come dicono loro. Sei una merda di uomo, una merda umana. Tifoso, zozzo, tu. Basta, fermi tutti, ciao Franco, fermi tutti. Allora andiamo a Milano, Marco, Milano, Marco, vai. Eccomi. Dimmi. Luciani, ciao. Io volevo intervenire su De Luca, però poi c'è stato lo splendido intervento di prima, mi sono preoccupato, cazzo, adesso magari ti rompono le palle a voi, a te Parenzo, per questo intervento qua. Già mi vedi per benissimi che dicono si senti la zanzara, razzismo in radio. E mo che succede, Trucia? Non ho capito, scusami, non ho capito. No, timore che magari qualcuno verrà denunciato perché fa schifo. Poi tra l'altro ho sentito Parenzo che si scaldava, è la prima volta che capita. Vabbè ragazzi, intervengono ogni tanto, interviene qualche matto, questo qua un tipografo di Roma, si è dichiarato, ha detto delle follie, ho sentito pure qualche imprecazione in diretta, anche se si sentiva un po' male, che parlava in un certo modo, va bene, cioè, prenderemo nota, che dobbiamo fare? Siamo qui a combattere, e anche, cioè, vuol dire, siamo in diretta, c'è, cioè, la gente interviene e parla, punto, cioè, non è che possiamo impedire la gente di parlare, la gente interviene e parla, chiaramente non condividiamo manco una parola di quello che ha detto questo, no? Mi pare evidente, no? Cioè, Per me è un godimento massimo sentire la zanzara, però poi ho paura che il sistema gli vada contro ancora di più. Comunque, tornando su De Luca, ho fatto una cosa che volevo dire, e lo chiedevo a Parenzo, no? Cioè, che la doppia morale per il PD non è mai stato un problema. Ma qui non è la doppia morale, qui è una lotta all'interno del PD sulla vicenda degli impresentabili. Una lotta all'interno del PD, e in particolare della Bindi, che ha voluto ritagliarsi un ruolo all'interno della commissione antimafia. E due giorni prima non si può emettere nessuna sentenza, tra virgolette, perché si danneggia la campagna elettorale. Addirittura ho letto da qualche parte che un ex, diciamo, del PDS, insomma, te lo ricordi, Fabrizio Rondolino, che fu un uomo di D'Alema, Parenzo. Allora, signor Rondolino dice che addirittura la Bindi dovrebbe essere denunciata per turbativa elettorale. Turbativa elettorale, perché secondo lui, e ci sono delle pene credo dai 2 ai 5 anni per turbativa della campagna elettorale, perché dicendo queste cose, presentando questo documento e la lista di questi 17 impresentabili, potrebbe essere denunciata. Ormai è tutto degradato ormai. Per lavoro o vacanze scegli il noleggio Europcar. Europcar, moving your way. Vi presenta La Zanzara. Faccio, io non vi sopporto, è un programma brutto, è brutto. Che c'è, Parenzo? Che succede? Ma che cosa? Ricevo commenti sulla telefonata di quel povero imbecille che... Franco da Roma, sì ragazzi, questa... Che ha detto delle cose vergognose proprio. Assolutamente vergognose, questa è La Zanzara. Succede anche questo, cioè l'intervento di... della gente, l'intervento delle persone che attaccano, persone che dicono corbellerie, persone che quello dicono... va chiamato col nome e cognome, cioè se quello non è razzismo, sì, assolutamente, assolutamente, cioè, se anche assolutamente, ma diciamo, al di là della questione di razzismo, quando uno dice che vuole bruciare delle persone, qui ci vuole anche l'intervento della forza pubblica a un certo punto, secondo me, perché no, assolutamente, però capisci che adesso io voglio fare polemica politica invece dopo che hai passato la telefonata. No, però io ti faccio ascoltare, perché capisci, però, che se Buonanno ieri dice che giocando... No, ma non c'entra niente, fuoco, sono due cose diverse, dai. No, su. Però scusami, è chiaro che... Perché dai, Buonanno è una persona che gioca col fuoco, letteralmente. Tu dici che facendo la io metafora... Ti dico di più, dico che se questo imbecille che ha chiamato ha sentito che addirittura un deputato europeo della Repubblica, un deputato, dice, arriva a dire in una radio, mettendoci la faccia e la voce, sì, io ripulirei il campo, fuori le persone e poi gli darei fuoco. Sì, sì, sì. Ma allora chiunque sia autorizzato ad andare oltre, se anche un deputato però dice una roba... Questi lo direbbero a prescindere da quello che dice un deputato, dai, c'è chi la pensa così. No, ma lo direbbero di nascosto magari al bar a un amico, ma no, si non c'entra, non si sentono impuniti. Non si sentono autorizzati da Salvini si e da Bonanno, sono impuniti. No, non è così, io non sì, sono convinto, te lo dico io, ma no, non è così, si non sentono è... impuniti. Comunque guarda, quindi una come responsabile Buonanno, il primo, cioè tu dici Buonanno è il responsabile dei razzisti. Buonanno che intervengono è più responsabile di quella merda che ha chiamato, di quella merda, perché non c'è alle 19:40 altro termine per, mi dispiace per le persone in macchina, ma non c'è altro termine per definire quella persona se non una merda. Allora, Simonetta Matone, sempre a proposito di Rom, che evidentemente è un argomento che tira molto di più rispetto agli impresentabili, non c'è dubbio, e a questa storia di De Luca contro la Bindi, Bindi contro De Luca, PD contro PD, tutti contro tutti, e chissà come va a finire alle regionali. Simonetta Matone è un magistrato che io conosco molto bene, ho anche recitato una cosa con lei a teatro, è del Tribunale dei Minori, se non sbaglio, forse non più del Tribunale dei Minori, non mi ricordo bene adesso che cosa fa. Comunque è molto conosciuta, viene invitata nelle trasmissioni. L'altro giorno, in una trasmissione della Rai, di Radio Rai, che si chiama Zapping, che va in onda proprio quando andiamo in onda noi, ha detto una cosa incredibile, cioè ha detto delle cose che sono praticamente delle cose, le stesse cose che dice Salvini. Senti, ti faccio ascoltare, ma Simonetta Matone non è una persona, come dire, no, non è una fascista, no, non è una razzista. Ha detto delle cose, per esempio, che i Rom vivono, senti. Queste persone di che cosa vivono? Come si procacciano da vivere? E la risposta di chi ha lavorato purtroppo per anni con loro è che si tratta di società che sono, e nessuno lo dice perché non è politicamente corretto dirlo, sono società che sono strutturate sulla commissione di reati. Cioè, tu capisci che questa è la situazione. Lascia perdere l'intervento di Franco, lascia perdere altre cose. Una signora, come dire, pacata, una persona che ragiona, una persona, non una persona arrabbiata, un giudice come Simonetta Matone, dice che la società dei Rom, i campi Rom, come vivono, è strutturata per commettere reati. Ma la realtà, io non lo dico perché odio i Rom, non li odio i Rom, io non odio nessuno. Non è che i Rom mi danno fastidio, certo, no, no, non fanno una bella impressione spesso, ma quando li si vede. Ma a questo ci sono già, no, c'è no, ma legge. Senti, ma ho capito, ma non può, per non si può negare qua. C'è la legge. Oddio, senti questa cosa qua, non senti. C'è il fuoco. Senti questa cosa qua, ma che, ma grazie, dai, su, ma non mi mettere in bocca cose che non ho mai, ma detto, non l'ho, dai. Detto a te, l'ho detto. Senti ancora la Matone, senti ancora la Matone. Sono realtà basate sullo sfruttamento di chi, sì, non può difendere. E non lo dice l'uomo della strada, ma lo dice chi ci ha lavorato. Ora, in prima persona. Ora, uno che vive, sì, e viene educato in questo modo, poi trova naturale rubare la macchina, trova naturale mettersi al volante senza patente e trova assolutamente naturale sfuggire a un posto di blocco, uccidendo un sacco di gente. Cioè, lei dice che non è che quella cosa lì nasce dal caso, cioè quella roba che è accaduta a Roma non è una cosa casuale. Se tu sei abituato ad una società criminale, una società che vive sui reati, poi trovi assolutamente normale non fermarti al posto di blocco, andare a 180 magari senza patente, non e mi spazzare... pare che per fortuna questi episodi siano all'ordine, sì, del giorno. No, ma non hai capito il ragionamento. Vabbè, comunque, non ho capito, la tolleranza zero non è una roba fascista. Senti ancora, senti. Problema gravissimo che è l'ordine pubblico all'interno dei campi nomadi, mandando il messaggio di tolleranza zero, che non è una cosa fascista o alla Rudolf Giuliani, ma è non consentire sacche di extraterritorialità all'interno del nostro territorio. Questa mi pare una cosa assolutamente logica. Ma ho capito, ma questo non è vero! Per anni si è dimenticata questa cosa! Tutti l'hanno dimenticata questa cosa, l'hanno lasciata andare! Tutti! Io con questa cosa ultima che ha detto sono d'accordo. E allora no, ma dovresti dirla più forte, non è la tolleranza. Della legalità, ma non è vero, hai parlato per una vita, cosa. Hai parlato per una vita di mediatori culturali, dai, su, ma di che stai parlando? I mediatori culturali, ma quali mediatori culturali? Ci vuole solo la legge, non i mediatori culturali. Ma di questo ci sono, ma non dire cazzate. Di bambini che ogni giorno da quei campi vanno a scuola, eh. Sì, vabbè, Pasquale da Salerno, vai, Pasquale. A fianco dei. Vai, Pasquale, vai. Buonasera, io volevo dire di De Luca, non faccio nemmeno il discorso se è candidabile oppure no, ma lo spettacolo che sta dando il vertice del PD 25 giorni fa, la Moretti. No, no, scusa, De Luca, il problema di De Luca non è questione di essere candidabile o no, cioè la questione è che De Luca lunedì, se viene eletto alla regione, il governo deve fare un provvedimento per sospenderlo. Questo è il punto di De Luca. Il governo dovrebbe fare, che ne dicano Renzi, che potrebbe essere accusato se non fa quel provvedimento addirittura di abuso d'ufficio, certo, se non sbaglio, certo, lo stesso Alfano dovrebbero fare un provvedimento per esclu-, cioè noi siamo in presenza, io lo dico con, io, a me De Luca fa impazzire, adesso faremo risentire tutto di De Luca, Crozza, il meglio di De Luca, eccetera eccetera, e per me è numero uno De Luca, sia chiaro, è numero uno. Il punto fondamentale è che a parti invertite il PD avrebbe fatto la rivoluzione a Salerno. Esatto. Scusami Cruciani, mi permetti, io 25 giorni fa ho sentito la Moretti all'area che tira di sparare a zero sui vertici campani, che De Luca non doveva essere nemmeno presentato alle primarie, ma l'ha detto di tutti i colori. Oggi vedo che i vertici, no, la Moretti, mi sembra di, la Moretti che ha detto che De Luca è in presenza, così mi sembra piuttosto difficile. No, guarda, Alessandra Moretti, la candidata in Veneto, ha detto questo di De Luca? Sì, sì, sì. No, ti sbagli, Pasquale, ti sbagli. Ascoltami, darsi che vuoi tra ti risulta, Parenzo, ti risulta questa roba? Non sì, mi pare. Volevo dirtelo, infatti, perché circola adesso, volevo verificare l'audio. Mi risulta anche a me, assolutamente. Cioè, che la Moretti, candidata a presidente in merito, ha sparato a zero contro De Luca? No, non ha sparato a zero, ha detto al suo posto non mi sarei candidata. Ah, vabbè, al suo posto non, cioè, mi sarei candidata, ho capito. No, beh, però non ha tutti i torti questo ascoltatore, cioè, non è che dice al suo posto, nella sua condizione, rischiando di dover ho capito, ho capito. In questo non senso. Mi sarei candidata. Capito, Pasquale. Ascoltami, Cruciano, un minuto. Dimmi. Lei sarà preso con i vertici campani, il regionale, il provinciale e il cittadino, che non lo dovevano proprio presentare alle primarie. Sì, ha sì, no, ma ho capito, ragazzi, però questa stiamo parlando del passato, però, Pasquale. La questione è molto... Oggi il PD... a favore di De Luca, quanto poi l'hanno detto di tutti i colori. No, attenzione, non è che il PD, cioè il presidente del Consiglio, poi vedremo come andranno le elezioni. Molti del PD sono scettici nei confronti di De Luca, lo sono sempre stati, anche in Campania, ne conosciamo moltissimi, David, dello scetticismo nei confronti di De Luca. Il problema non è quello. Renzi ha deciso, nonostante come dire, molte cose lo portassero a fare il contrario, non ha avuto la capacità di opporsi a quello che in Campania è un cacciccato, è una specie di piccolo regno, il partito di De Luca. Questo è il punto fondamentale, ha un sacco di consenso e Renzi non ci ha voluto rinunciare, non ha voluto ingaggiare battaglia con De Luca. A un povero sfigato, lo dico con affetto, come Crisa Fuglia Enna, che non conta una mazza all'interno, come dire, della geografia politica della Sicilia, ma conta in una città di cui a Renzi non frega nulla, che Enna lo ha scaricato. Se in una situazione, quella di Crisa Fuglia Enna, ma nettamente diversa rispetto a quella di De Luca, questo non c'ha manco una condanna. Crisa Fuglia è stato assolto da tutto, di che parliamo, dai? Io vi adoro. Ogni giorno vorrei fare la zanzara. La zanzara. Abbiamo qui con noi un amico della Zanzara che è anche un componente della commissione antimafia per capire qualcosina in più, non tanto, ma speriamo qualcosina in più di quello che è successo in queste ore. Cioè, le accuse alla Bindi da parte anche di membri della commissione antimafia sono quelle di avere fatto tutto da sola praticamente, di aver ignorato il resto, più o meno gran parte della commissione, e di avere fatto tutto questo procedimento all'ultimo secondo, eccetera eccetera, con la lista di questi 17 impresentabili, tutto da sola. Un'iniziativa che è più, diciamo, politica che altro. Stefano Esposito, Partito Democratico, senatore, buonasera. Buonasera a voi. Allora, che ne pensa lei? Ha fatto tutto da sola la Bindi? Ma diciamo che questa storia è cominciata male ed è finita peggio. Adesso dire che ha fatto proprio tutto da sola mi sembra un po' eccessivo. È stata gestita all'interno dell'ufficio di presidenza. Ma tu hai approvato questa relazione finale o no, Stefano? Non ho capito. No. Non hai messo non nemmeno... C'era da approvare, non c'era da approvare, no? Niente. Non c'era da approvare nulla. Nel senso che questa è stata una cosa gestita dall'ufficio di presidenza. Cioè, non sostanzialmente dalla Bindi, dai, praticamente solo dalla Bindi. Guarda, io sono molto critico, però non mi piace neanche raccontare. Ma se fossi stato lì, che cosa avresti fatto se fossi stato all'interno durante la conferenza stampa oppure negli ultimi giorni della commissione? Ma guarda, io oggi non sono andato in commissione perché sono venerdì. Scorso mi sono fatto un piccolo intervento di ernia, così sono beccato anche la bronchite. Pure. E l'ho fatto appositamente perché questa settimana è una settimana in cui non si lavora al Senato. Cioè, tu sei componente della commissione antimafia e non ci sei stato praticamente in queste... Succede anche a me di stare male. No, mi sono operato perché? Di ernia per poter facendolo in una settimana in cui non era previsto. Okay, però ma non ti senti superato? Cioè, voglio dire, tu fai parte della commissione antimafia. Oggi viene dalla commissione di cui fai parte una decisione che è quella dichiarare De Luca impresentabile. No, scusami. Oggi la commissione antimafia è stata riunita in tutta fretta alle ore 13 per comunicazioni di decisioni già assunte dall'ufficio di presidenza. E meno male che sono in queste condizioni, cioè i punti ancora perché? Da togliere, perché se fossi stato lì avrei girato il tavolo. Cioè avresti preso il tavolo e l'avresti rigirato, dici? Rigirato, perché onestamente, siccome noi abbiamo detto a più riprese, e io posso testimoniare che il capogruppo del PD, Franco Mirabelli, lo ha detto e ripetuto anche nelle ultime settimane, dicendo, cara Rosi, attenzione, perché se arriviamo troppo sotto alle elezioni, trasformiamo questa vicenda invece che in una vicenda di comunicazione agli elettori per informarli, certo, trasformiamo la commissione antimafia in uno strumento politico. Ed è quello che purtroppo è successo, secondo te? È quello che è successo. Ma scusami, ma cioè la Bindi ha utilizzato questa commissione come uno strumento politico? Ma è come, non è lei che è il deus ex machina, Stefano? Io capisco che vuoi. La Bindi, secondo me, le è sfuggita la cosa di mano. Non ha ascoltato nessuno. Appunto. Sì, che bisogna dirlo. Non ha ascoltato i suggerimenti e i consigli pacati. Guarda, ti garantisco che il capogruppo del PD in commissione antimafia non è come me, è una persona pacata, moderata, e interloquisce. Giovedì scorso, ed è un presente testimone, le ha ancora detto: Rosi, guarda che stiamo arrivando troppo sotto le elezioni, tirar fuori questa lista troppo sotto le elezioni. No, lui immaginava, è una follia, certo, è una follia, sicuramente una permettimi follia, una cosa. Però alla base di tutto c'è uno. Lei ha semplicemente visto il codice di autoregolamentazione, una cosa noiosissima, ma è semplice da capire. I partiti hanno approvato tutti insieme un codice di autoregolamentazione, lo hanno tradito nel corso di queste elezioni perché hanno presentato gente che non si poteva. Sì. E allora, se commissione antimafia o commissione non antimafia. Il codice è stato tradito dai partiti, questo è il punto. Ascolta, non è così. Non piacere quel codice. Permetti, dimmi, Stefano. Se no. Giustamente tu fai una disamina abbastanza puntuale. Noi abbiamo approvato un codice di autoregolamentazione. Tutti l'avete autoregolamentazione, votato. Non, ascoltami, purtroppo non vincolante. Questo è stato uno dei temi dibattuti quando abbiamo preso posto quel codice. Questo è il punto, certo. Aspetta. No, però, vabbè. Quando abbiamo fatto la discussione, che è stata una discussione seria e anche allora attesa, abbiamo detto: attenzione, non trasformiamo questo codice in un codice penale. E evitiamo di trasformare la commissione antimafia nella nuova lettera scarlatta. Allora, ti posso dire dove sta la critica? Intanto, sì, dimmi. Il principio del codice dovrebbe prevedere che tu quella verifica la fai a valle. Ma sì, ma doveva essere fatto un mese fa, quando sono uscite le liste, no? A due giorni dalle elezioni, dai. Oppure 15 giorni prima. Sì, 15 voto, giorni prima, adesso, dai. Adesso ti racconto questo paradosso. Sì. A me De Luca non piace come ha gestito la sua candidatura, le liste, il suo atteggiamento. Però senti De Luca, c'è scritto nelle carte presentate oggi. De Luca viene messo tra gli impresentabili per un cosiddetto reato spia. Sì. Che di 17 anni fa. 17 anni fa. Aspetta. Attualmente ancora in giudizio. Ma lo sai perché ancora in giudizio non è prescritto? Perché lui ha fatto opposizione, sì, certo che lo so. Perché lui ha chiesto, scusami, De Luca fa una cosa che tutti normalmente chiedono ai politici: rinuncia alla prescrizione. Quel Cristo rinuncia alla prescrizione ed e si ritrova nella lista degli impresentabili 48 ore prima delle elezioni. Capito, ma perché non gliel'avete detto alla Bindi allora? Perché non gliel'avete detto? L'abbiamo detto. Allora voleva colpire De Luca. Allora voleva colpire verità, De Luca. Probabilmente. Da un lato, o lei ha sottovalutato, io ho sempre creduto questo, l'effetto del... Ma dai, ma non è mica nata ieri, non è mica nata ieri, dai. Sai che non sono uno che ha cruciato. Scusami. Vabbè, uguale, dai, è uguale. Scusami. La verità è che l'intervista di ieri di Speranza, dell'ex capogruppo alla Camera, che annunciava che di fronte alla lista degli impresentabili che sarebbe stata presentata oggi, sì, ognuno si doveva assumere le sue responsabilità con tono roboante, evidentemente lui sapeva qualcosa che noi non sapevamo su De Luca. E questo trasforma la vicenda di oggi in una vicenda politica di regolamento dei conti nei confronti del governo e di Renzi. Cioè Renzi la Bindi ha voluto fare un regolamento di conti nei confronti di Renzi, dai, diciamo. E se è così, sai dove è il problema? Qual è? Che abbiamo demolito la credibilità di una commissione importante come la commissione. Importante, per me non serve una mazza, comunque vabbè. Questa è la commissione, io invece penso, per il lavoro peraltro che ha fatto in questo anno e mezzo sotto la presidenza Bindi, che è una cosa che serve. Comunque la Bindi, tu vuoi dire Stefano, la Bindi ha demolito la credibilità della commissione antimafia, questa è la realtà. Evidentemente sì, con questa operazione. E purtroppo non è vero che ha fatto tutto da sola, ma è vero che non ha ascoltato alcun consiglio quando i tempi stavano diventando effettivamente ravvicinati rispetto alle elezioni. Ma per te De Luca è presentabile o no? O è un impresentabile, per concludere? No, allora De Luca è assolutamente presentabile alle elezioni. Ma ti pare normale che lunedì, se vince, non può essere deve essere sospeso da Renzi? Ma non è una legge Severino, però. Ma non è una situazione paradossale. Sì, è una situazione paradossale. Posso dirti, è presentabile. Io fossi stato nel Partito Democratico, ma l'ho anche detto e scritto. Non l'avresti presentato. Avrei evitato e sarei intervenuto per tempo per evitare la candidatura di Sì, ma questi lo pensano tutti. Si creerà un imbarazzo pazzesco. L'imbarazzo che si creerà lunedì è un imbarazzo. Dopodiché, tra questa critica che io faccio anche al mio partito e dire che De Luca è un impresentabile da trasformare nelle prossime 48 ore in un uomo vicino alla mafia o con interessi vicino alla mafia per un reato ce ne passa, spia. Sì, ce ne passa. Ce ne passa, abbiate pazienza. Non siamo assolutamente, reati spia, poi che cazzo c'entra il reato spia? Quando uno dice reato spia, dai, fermi. Grazie Stefano Esposito, Partito Democratico, senatore, pubblicità. Torniamo subito, ascoltatori e tanto altro. Questa trasmissione è assolutamente geniale. La Zanzara. Tempi duri, non tanto per noi, non ce ne frega niente, nulla, zero. Ancora super Berlusconi dalla D'Urso, dopo aver detto sei l'unica che non c'è stata, cioè me le sono fatte tutte. Intanto devo dire, lo dico per Francesca che a casa mi guarda, non sono venuto per tentarci ancora. No, sei andato perché mancano due giorni alle elezioni e sei andato a fare una lunga diretta con la signora D'Urso. La signora D'Urso ha parlato poi di Dudu e Dudina. Dudu e Dudina. E Dudina ci darà fra qualche tempo dei dudini piccolissimi, dei dudini piccolini che saranno meravigliosi. Ma già aspetta i dudini? Sì, sì. È già incinta? No, non li aspetta, ma la prossima volta ci sarà la possibilità che questo avvenga. Poi ha parlato di Harley, ma dell'Harley Davidson, di che cosa? Harley, che cosa cavolo è sta roba, Harley? Non l'ho sentito manco io perché è stato oggi pomeriggio, vai. Invece questa Harley è un po' un'intrusa, molto amata da Francesca, è una generosa ma anche prepotente, me la trovo sul letto, mi fa svegliare, mi entra in bagno, mi ruba le ciabatte, mi ruba le zoccoli, viene, cerca di venire in piscina, è una ira di Dio. Sì, sì, è un altro cane. Da Padova 800 24 0024, Carlo, vai. Pronto, Cusani? Dimmi. Allora, niente, io volevo riprendere un attimo quella persona simpatica che avete fatto parlare. Sì, Franco da Roma, sì, Franco da Roma. Era un fiume allora, in piena, non riuscivo manco a fermarlo. Comunque l'abbiamo fatto parlare perché, caro Carlo, bisogna capire, qui abbiamo ricevuto molte critiche, ovviamente riceviamo ancora molte critiche per alcuni ascoltatori, per alcuni toni, eccetera. Qui il problema non è bloccare le persone, il problema è che le persone, quando tirano fuori questa rabbia, quando tirano fuori questa violenza nelle parole, bisogna che la tirano fuori tutta. Cioè noi vogliamo tirare fuori spesso il peggio dalle persone o il meglio a seconda dei loro ragionamenti, naturalmente, però non è che uno può dire no questa cosa qui non la voglio sentire, oddio no. Beh, ma uno sarà responsabile di questo dicembre, no? Ma per carità, se uno poi dice le cose, certo che è responsabile. Perché, ma questo, se no, si ma fa stai dicendo in cavalleria. Ma stai dicendo un'ovvietà, certo. Però che è responsabile di quello che dice. No, io dico che quella che è un'ovvietà, è un'ovvietà perché hai detto le persone sono responsabili di quello che dicono, certo, nessuno dice il contrario, cioè. Me lo auguro che paghi. Vabbè, ma quello è un altro discorso, pagherà o non pagherà. Oddio, posso, che banalità, dai Carlo, vai, dimmi. Niente, io dico che sì, che sicuramente lui è responsabile di quello che dice, non è piove. Che il problema non è quello di impedirgli di parlare. Ma nessuno dice che nessuno dice che è un obbligo farlo parlare. È intervenuto, ha chiamato il centralino. Problema, una cosa molto semplice accade qui. Uno chiama il centralino e viene messo in onda, punto, basta. Però il problema, vedi, è che far da megafono. Ma non c'è nessun megafono qui, perché non è che. Mi lasciami parlare. Vai, dimmi. Non ti ho detto mai che sei cretino né niente. No, ma non mica, guarda, non è quello il punto. Allora, sì, però fammi parlare, non ti ho chiamato per questo. Vai. Allora, il problema è che quando si fa, lasciano parlare quelle persone, non si fa un'opera di cultura, si fa il contrario del male, perché ci sono altre persone come quello, non è mica l'unico, no, e quelle persone simili a lui quando sentono quelle cose si rinforzano, no, cioè, quelle, no. Sì, ti assicuro. Carlo, guarda, qui non aspetta, siamo, qui non è, questa trasmissione non è, non è la né l'Accademia della Crusca, non deve educare a nulla, non deve fare educazione civica, capito? Sì. Ma quello che io ti sto dicendo è che tu a un certo punto, quando lui sta sproloquiando dicendo cose terribili che a me sinceramente offendevano, come penso hanno offeso Parenzo e forse anche te, penso. Assolutamente, sì, offende, adesso non esagero, non è che mi hanno offeso personalmente, ci vuole Hitler, Mussolini, bisogna bruciare i campi rom, bisogna ucciderli tutti, è un pazzo, certo che sono cose orribili. Sono cose orribili, sì, anche abbiamo a che fare, sono avvenute. Allora, il problema è stato che quando lui ha detto una bestemmia, ha detto una bestemmia. Ma io non l'ho manco sentita, guarda, non l'ho manco sentita, ti assicuro. Allora vai a risentirti la tua. Sì, ma non mi hanno detto, No, ascolta. Io ho detto fermo perché mi sembrava di avere sentito, punto, ma non... E l'hai bloccato. Allora, sinceramente, a me una bestemmia non offende. Cioè ti offende più l'attacco ai rom? No, non offende. Cioè, uno che bestemmia, allora vabbè, ho capito, però la bestemmia, ragazzi, non si può bestemmiare, è chiaro. No, cioè, ma quelle che lui dicevano sono bestemmie dell'umanità. Sì, ma ho capito. Per quello, non si può lasciare la voce a un personaggio del genere. Perché fai del male. Sì, però scusami, Carlo, a un certo punto, siccome Parenzo anche lo stava contestando, gli stava dicendo delle cose, che lo denunciava, non è che uno può interrompere a un certo punto. Poi, ragazzi, decide io cosa mettere in onda, cosa non mettere in onda, e soprattutto per quanto tempo. A un certo punto, quando la situazione, come dire, la lotta mi sembrava esaurita, ho chiuso la vicenda, punto e basta. Finché c'era lotta, finché c'era discussione, chiamiamola discussione, tra un pazzo e Parenzo che lo contestava, perché quello matto è matto rimane. Non ci sono dubbi. Fin quando c'era questa battaglia, ho ottenuto la battaglia, ma l'ho ottenuta perché è interessante anche sentire la violenza delle persone. Grazie Carlo, comunque, ciao. Giovanni Campobasso, vai. Oh, ciao Giuseppe. Dimmi. Giuseppe, sai dove sto ora, in questo momento? Dove sei, Giovanni? Sto a bere una birra in un bar. È da due ore che chiamo e ho bevuto già tre birre. Salutami a Davide. Sì, tre birre mi sembra un po' troppe però, Giovanni. Ho esagerato, nell'attesa, sono nervoso perché io vi seguo, io sai dove l'ho scoperta la vostra trasmissione, lo vuoi sapere, Giuseppe? Dove, dimmi, caro? Mi si è rotto il computer, no? Sì. Mia figlia ha il tablet, mi mettevo la sera sul tablet, vedevo i video su YouTube, sì. Ho scoperto la vostra trasmissione. Te lo giuro, ascolta, io volevo dire una cosa, due cose anzi, una sugli animalisti, però non la dico ora perché non la posso dire. Sì, però calma, hai bevuto, quante hai bevuto? Tre birre? Tre birre. Ma tre birre come, bottiglia o medie o il boccale di birra? No, piccole, no. Tre bottigliette, tre peroni, che te sei fatto? Tre peroni, giusto. Tre Heineken, tre peroni, tre... No, tre peroni piccoli. Ascoltami, Giuseppe, non mi prendere per alcolizzato perché non sono. Eh? Non ti sto dicendo che sei alcolizzato, magari sei un po' brillo. Però la voce è un po' imbastata, però vabbè. Vabbè, Giovanni, no, vai. No. Ascoltami, volevo salutare a David. Sì, vabbè, questo l'hai già fatto, Giovanni, poi? David, io per te ho chiamato. Sono qua, volevo dimmi, dire... caro, non capisco. No, sai perché? Volevo dire una cosa sul... Sì, però, amico mio, se hai bevuto... Ho capito, però non è qui la radio, non lo stiamo a... Ascoltami, qua ci stanno parecchi immigrati a Oruro. Io abito a Oruro, in provincia di Campobasso, un paese piccolissimo. Sì, ci sono molti immigrati, No, immigrati, sono venuti qua, li hanno messi in un coso e stanno là. Sì. Ora, li volevo dire a David, non mi mettere nella lista dei nazisti, perché io non sono un nazista. Però quattro giorni fa una di queste qua si è sposata, no? Una di queste chi? Di queste migranti? Una di queste ragazze si è sposata in piazza Uruguay. Evviva, sì. No, è una bellissima ragazza nera, si è sposata, abito rosso, tacchi altissimi. Sì. È venuto un pulmino di suore, 4-5 suore della Caritas, no? Sì. Hanno fatto il caso. Ma questa dove sta? In un centro di immigrati? Dove sta questa qua? Stanno qua, sì, un centro. Che ne so, che c'è un centro lì a Uruguay, c'è un centro di immigrati? Sì, c'è un centro di immigrati. Vabbè, allora? Oh, si è sposata in piazza. Sì. No, perché non voglio essere razzista con Davide. Sì, ma ho capito Davide, che non vuoi essere razzista. Per adesso siamo arrivati... Giovanni, scusa, stiamo calmi. Ma io ti voglio fare finire. Io sto dicendo semplicemente, siamo arrivati a un punto. C'è un centro, mi sembra che Davide, possiamo riassumere, no? C'è un centro di immigrati ad Aururi, là, come il diavolo si chiama, vicino Campobasso. Non voglio essere nazista, dice Giovanni a Campobasso. Ho visto l'altro giorno ho visto un video... che lui prendeva le liste, questo è nazista, questo non lo è, capito? No, ma lascia perdere, Giovanni, hai visto una ragazza di questo centro, una ragazza nera, che si è sposata vestita di rosso con i tacchi. Bene, a noi però che cazzo ce ne frega, Giuseppe, di questa qua? No, Giuseppe, ascoltami. Dimmi. Ha fatto un'entrata, due bellissime bambine, sì, vestite bellissime. Tutto questo è molto questa bello. Questa ragazza, no, no, ma... David, non ce l'ho con te, ti voglio spiegare solo una cosa molto importante. Parla io. Zitto, zitto, zitto. Adesso, ma fammi finire. Vai, vai, vai. Giuseppe. Sì. Sono venute 4-5 sole col pulmino, sì, della Caritas, no? Sì. Hanno fatto tutto il catering e invitati anche gente del nostro paese, no? Il giorno dopo sono andato a fare colazione al bar, è venuta questa ragazza, sì, le due bambine e il marito. Il marito lavora a Reggio Emilia. Sì. Per dire, queste ma il marito di chi? Ma il marito nero pure lui? Di questo. Sì, sì, è chiaro, nero pure lui. È chiaro, esistono pure le coppie miste. No, no, no. Vabbè, in questo caso no. Oh, vestito benissimo, David. Con ma David, un corno, cosa devo dire? Ma mi chiami, dire, amico mio, non capisco. David, David, che devo dire? David, David, ma allora non mi metti nella lista dei nazisti? Oh, no, ma che vuol ma dire? Non hai ma detto non niente. Non mi metto da nessuna parte se non nel manicomio, perché non capisco cosa vuoi dirmi, fratello. E zitto, non zitto. Giovanni, stai dicendo che c'è? Fratello, invochi il mio nome, non ho messo nessuna lista di nazisti. Stai dicendo, stai dicendo, scusa. Molti giorni fa io vedevo video su YouTube vostri, no? Hai fatto questo, questo è embriaco. Vabbè, io ho capito una cosa. Giuseppe. Giovanni si è mezzo ubriaco, dai, diciamo la verità. Tu, Giovanni, il punto è questo: si sono sposati due signori neri di colore, giusto? Beh. Di cui uno viene da Reggio sposata, Emilia vestito bene. Sposata, una che è arrivata col barcone. E vabbè, è poi cosa devo fare? Lavora a Reggio Emilia, Giuseppe. E allora evviva! Non è che sono straccioni. Ah, si prendono per il culo, Giuseppe. Vabbè, adesso uno perché si è sposato non è uno straccione, magari è uno straccione lo stesso, si sposano guarda, pure gli straccioni, dico, amico mio. Guardami, guardami, Giuseppe. Ascoltami un secondo, ti guarda, ti sto, è 2-3 minuti mia che ti ascolto. Mia moglie, sì, mia moglie. Dov'è tua moglie in questo momento? Mia moglie, no, mia moglie. Dov'è in questo momento tua moglie? Ascolta, Giuseppe, non ma so dov'è? Dimmi dov'è tua moglie in questo momento. Guarda, non sono uno straccione, Giuseppe, non mi prende per uno straccione, mo stai calmo. No, Giovanni, io sto capendo. No, dov'è tua moglie in questo momento? Perché è grave la cosa. Tu ti sei fatto 3 birre al bar. E tua moglie dov'è? A casa. A casa, e perché non vai a casa da tua moglie invece di prenderti 3 birre al bar? Sì, ma mi ascolti un attimo. No, ma spiegami questa lavora, cosa. Mia moglie lavora alle poste. Lavora alle poste, bene. Qua, oh, appena sbarcano questi qua, che hanno quelle 35 euro al giorno, sì, vanno alle poste, mi dice mia moglie. Sì, dice tua e moglie. E te lo giuro, sulle mie bambine, con due pure, bambine. Che fanno a casa? Perciò casa? Non mi prendere allora, beh, allora, per un ubriacone. Allora? Fanno lì, si comprano l'iPhone, Giuseppe. Sì, l'iPhone con 35 euro che ce fanno con l'iPhone. No, la copertina comprano dall'iPhone. No, Giuseppe, comprano quello là, le poste. Il telefonino poste, quello delle poste, sì. Il telefonino quello delle poste. Allora? No, quello delle poste, si comprano quello da 500 euro, ti voglio dire. Ma David, con quali soldi? Che ci prendono per il culo. Ah, perché hanno i soldi, ci pigliano per il culo. Vabbè, hanno allora i soldi. Sai perché, Giuseppe? Perché dimmi. Non è possibile che quell'immigrata sta qua a 35 euro e il marito lavora a Reggio Emilia, Giuseppe. Vabbè, ciao amico mio, ciao Giovanni. Ciao, vi bacio a tutte e due, andate a fare in culo. La Zanzara. Amici miei, siamo al top, siamo veramente al top. Ieri hai detto delle cose tremende su Radio Padania, e sugli amici conduttori Varin e gli altri, Davide. Ho detto delle cose sono scatenati, che corrispondono. Sono scatenati e dunque a grande richiesta Radio Padania. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guarda avanti. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania. Senti, ma guarda che davvero, se tu ascolti Radio 24 la sera alle 18.30, ne dicono di tutti i colori, in confronto, qui a Radio Padania siamo dei Santerelli. Vai vedere le tue braccia possenti. A chi ti vuole fermare? Io ce l'ho a morte con gente come quei due lì, che sono solamente dei rinnegati infami e vanno messi snoro ad Auschwitz. E Nabucco salirà al comando. Grazie, gentile amico, grazie. Figlia della libertà. Tutti questi ascoltatori di Radio Padania, quando finirà Radio Padania, li voglio tutti con me. Ma non ti preoccupare che già tutti, ci sono tutti, ma non ti preoccupare. Tutti. Ma col cazzo che vengono da te, Cruciani! A un certo punto, Cruciani, insieme all'amico, rimarrai solo. Amico Varino, con cui si è fatto una foto. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera. Che ascoltatorini gentili che è Radio 24, altro che Vespasiano, signori, colpa delle istituzioni. Questo è un pisciatoio pubblico, Radio 24, quando c'è la zanzara. Vanno bruciati via dall'Italia, vanno messi nei forni. Sentite, politici, caccia oltre il fiume. Cioè, hanno ripreso le dichiarazioni dei cosi, le dichiarazioni dei di quelli contro i Rom, dicendo che ne diciamo di tutti i colori, eccetera, eccetera. La differenza, caro Varin, è che tu sei praticamente come gli ascoltatori che abbiamo sentito, più o meno uguale, mentre noi siamo qui ad ascoltare la gente, ma poi, come dire, ci contrapponiamo, li sfidiamo, combattiamo. Tu invece a quelli che dicono che i Rom sono tutti ladri, pezzi di merda, eccetera, dici sì, bravo, vai avanti, benissimo. Bella e libera. Servi di Roma. Traffico, fuori. Traffico, torniamo subito, sempre 800 24 0024. È il traffico. Mamma mia, no, il traffico, no, vi prego, traffico. No. Regione Emilia-Romagna ti aspetta a Research to Business, 4-5 giugno, Bologna Fiere. Vi presenta La Zanzara. Torniamo un attimo sulla questione dei vitaliziati, so che molti di voi vogliono intervenire sui Rom, Lia dalla provincia di Torino, Andrea da Brescia, Lina da Bologna, anche le donne, Rosario da Firenze e anche chi c'è poi qui in lista, Mimmo dalla provincia di Napoli, Mimmo per primo perché è un po' di tempo che è lì in attesa, però sentitevi questa roba qua perché io voglio richiamare un attimo, se riusciamo a pizzicarlo, penso di sì e spero di sì stavolta perché abbiamo fatto una provina prima. Il signor Raniero Lavalle era libero prima, sempre con un suono straniero, perché ieri o l'altro ieri mi sembra che fosse a Parigi, no? Te lo ricordi? Questo Raniero Lavalle, voi vi chiederete, ma chi cazzo è sto Raniero Lavalle? Questo qua è un vitaliziato, ma di quelli pesanti, cioè è uno che prende 5.081 euro di vitalizio, 5.081 euro, ma soprattutto li prende da moltissimi anni, essendo stato in Parlamento negli anni fine anni 70, inizio anni 80. Ha già ricevuto 1.400.000 euro e ha versato 240.000 euro di contributi, cioè praticamente una differenza di 1.160.000 euro. Un furto legalizzato, una truffa legalizzata. Allora, questo Raniero Lavalle, tra l'altro, è uno di quelli che è anticapitalista, ne abbiamo già parlato l'altro giorno, lista comunista anticapitalista, si è presentato nel 2009. Raniero Lavalle. Pronto? Sì, sono Parenzo, ciao. Con chi parlo, scusa? Parenzo, Radio 24, perché ieri mi dispiace, il mio collega è stato molto maleducato. Un po' scortese, sì. Lo so, ma lui è così, Cruciani è conosciuto. No, è stato, ma infatti volevo dirtelo, molto maleducato, molto duro, poi, molto... E quando si comincia così una conversazione... No, ma non è inammissibile, non... Volevo dirtelo, insomma, perché... Ma com'è sta... No, perché sai, sei sempre a Parigi? Sto tornando, stasera sono a Roma. Ah, ecco. No, ma allora com'è sta storia del vitalizio e dei soldi? Qual è la dei soldi che è incassato? Ma che è incassato? È una pensione, no? L'abbiamo sempre considerato come tale. Sì, però se uno versa... Il vero scandalo è che a causa dei vitalizi non si sciolgono le camere quando dovrebbero essere sciolte. Questo in che senso? È la vera... le camere che dovrebbero essere state sciolte già da mesi non vengono sciolte perché i deputati vogliono arrivare a prendere il vitalizio. Questo è il vero problema. Ma che c'entra questo con i vecchi privilegi? Diciamo, perché quelli tuoi sono un po' dei privilegi, diciamocelo francamente, è un po' un privilegio. Guarda, quello, io ho 20 anni di contributi ed è una pensione. Per noi è stata sempre una pensione, perché se tu prendi dal 47 in poi, da De Gasperi in poi, a Togliatti, a Nenni, a Basso, cioè a tutti hanno preso il vitalizio. Per noi che abbiamo vissuto quella stagione politica, il vitalizio era la pensione, lo chiamavano così. No, ma d'accordo, pensione, ma se uno versa 100 e poi incassa 150... Cambiate le leggi, perché appunto purtroppo non sono morto in tempo per stare dentro al margine. Cioè, che cosa vogliono questi qui? Che non vogliono sono morto questo. In tempo, mi dispiace, non sono morto in ma tempo. Ma tu hai visto perché, Libero? Io non lo vedo, ma figurati se lo vedo Libero. Libero ha scritto papponi di Stato. Io non raccolgo le aggressioni, quindi mi dispiace, ma io non rispondo. Io come aggressione, però, dici? Un'aggressione proprio? Sono aggressioni, ma mica sono. Una manganellata proprio. Sono forme aggressive, insomma, non è il mio modo di intendere la Repubblica, la politica, l'impegno sociale, insomma, è un'altra cosa, cioè io non raccolgo. Però capisci che gli italiani sono un po', secondo me si dice incazzati, capito, per questa roba, perché uno dice, ma scusami, quello ha versato 100 e ha molto di più di quello che ha versato. Ma questo succede anche per le pensioni, sai. Beh, no, infatti hanno cambiato, c'è stata una legge per tutti per cambiare il sistema, no? Allora facciamo una legge e cambiamo i vitalizi, per carità, sono completamente d'accordo, ma il problema delle pensioni, da quando si è allungata la vita, è il problema che hanno in Cina hanno fissato l'età di pensione a 55 anni. Sì, però parliamo di una cifra di un milione. L'attesa di vita erano di 60 anni in Cina. Sì, ma tu hai già incassato 1.400.000 euro, amico mio, no, il dato, amico mio. 1.400.000. Mi dispiace. No, ma non dico, tu devi vivere a lungo, fratello. No, però ti dico, non devo vivere. Ma no, devo un milione, vivere, però se il problema è quello. Non è che io sto accumulando, che ogni mese cerco di fare in modo. No, che ho capito, però tu hai incassato già 1.400.000 euro. Questo voglio dirti. Ti sto dicendo che questo succede per tutte le pensioni. Il sistema pensionistico. Aspetta, che ti passo Cruciani, così fate pace. Scusa, io sto partendo, devo prendere l'aereo. Aspetta, salutalo almeno, salutalo. Saluta Cruciani che ti voleva salutare un attimo. Saluto Cruciani, però devo prendere. Raniero, scusami, ti volevo chiedere solo una cosa, però solamente una cosa e poi ti lascio libero. Ma voi dovete porre il problema che il vitalizio sta diventando un ostacolo al funzionamento della Repubblica, perché a causa dei vitalizi. Questo l'hai detto, sì, certo. Questo è una cosa importantissima che nessuno dice. No, ma senza questi soldi saresti in difficoltà? Questo ti chiedo. Guarda, io faccio una molta attività politica a mie spese, perché nessuno me le paga, nessuno mi paga. Che attività politica fai? Non faccio il giornalista pagato con i contributi dell'editoria. Non faccio parte. Io non, a me non mi dà nessuno. E allora vabbè, quindi siamo tutti, guarda, tutti quanti, perché no, tu sei pagato con i soldi dagli italiani da un sacco di tempo, io da 5. Sono pagato con i soldi perché io ho lavorato per 60 anni per gli italiani. Allora gli italiani. No, per 60 anni, veramente hai fatto meno legislature. Io ho fatto 4 legislature. Ho capito. Se non vogliono pagare, che cambino le leggi, sono d'accordissimo, sono contentissimo, però se vogliamo... Capito, ma non ti pare un'ingiustizia avere versato 240 e incassare 1.400.000? Non allora, è un'ingiustizia? Sulla base di questo cambiamo le leggi, cambiamo i parametri, sono perfettamente d'accordo. Io purtroppo non sono in Parlamento, quindi non posso... No, però sei un privilegiato, bisogna ammetterlo che sei un privilegiato, bisogna dirlo. Io sono un cittadino, voglio sapere dov'è il crimine, dimmi dov'è il crimine. No, ma non è un crimine, no, ci sono dei crimini legalizzati, ci sono dei crimini legalizzati, questo è una truffa legalizzata. Questo è un crimine, questa è una truffa, questo è il tuo parere. Siamo in una posizione, diciamo, di demolizione della democrazia in Italia. Cioè, se tolgono questi vitalizi, tolgono la democrazia, non ho capito. Fa parte, perché questa è una diffamazione di tutta la classe politica, dal 47 in poi, a cominciare dai padri della madre. Ma sono dei privilegi, la Valle, Raniero, dei privilegi. È la demolizione della democrazia. Ma non è la demolizione. Scusami. Il mio aereo sta partendo, ti devo salutare, perché il mio aereo sta partendo. Vabbè. Ti saluto. Ciao. Come lottava il signor Raniero Lavalle, classe 1931, 1.400.000 incassati, ripeto, 240 versati, certo, sta campando e per carità auguriamo lunga vita, però con la stessa cifra, se uno avesse versato la stessa cifra, un italiano normale, io voglio sempre ripetere questa cosa, un italiano normale che versa quella cifra di contributi prende molto meno rispetto a 5.000 euro di pensione. Oggi gli italiani che prendono 5.000 euro di pensioni o sono super privilegiati, alti dirigenti eccetera, oppure sono parlamentari che hanno fatto semplicemente 20 anni. Ora per 20 anni uno non può prendere 5.000 euro a spese nostre, amico mio, Bello di casa. Per lavoro o vacanze scegli il noleggio Europcar. Europcar, moving your way. Vi presenta La Zanzara. Vogliamo dire una cosa sulla rielezione di Blatter a grande capo del calcio mondiale? Diciamo solo una piccola cosa. Ha ragione la gente, quello che è ancora la gente di Balotelli, quello un po' ciccione, no? L'ex pizzaiolo di Amsterdam, la Mino Raiola, quando sostiene che la FIFA dovrebbe fallire. Cioè dovrebbe fallire, chi se ne frega della FIFA? Le federazioni nazionali non dovrebbero dare più retta a questo signore, non dovrebbe dare più retta alla FIFA, farla fallire direttamente, organizzarsi in modo diverso. Cioè accuse di ogni tipo, il suo vicepresidente accusato di mazzette, arrestato, si è consegnato in America, eccetera, e tu che fai? Vieni rieletto, ma il problema non è suo che si ricandida, il problema è di quelli che l'hanno rieletto. Vabbè. Abbiamo un grande ospite fra poco, che ho visto l'altro giorno su un palco in un teatro milanese, però voglio sentire prima Mimmo da Napoli, che era un po' di tempo che ci stava aspettando. Mimmo, vai, Mimmo, veloce, vai. Finalmente, Cruciani, è giusto un'ora che la stavo aspettando. Sì, hai ragione, vai. Vabbè, ma non c'è problema, io le volevo dire solo due parole. La vorrei invitare, a lei e a tutte le trasmissioni che stanno marciando sulla questione dei Rom, di fare una riflessione insieme a me, semplice. Abbiamo tre regioni sotto lo schiaffo della malavita organizzata. Vabbè, questo lo sappiamo. Abbiamo la più potente organizzazione mafiosa, l'Andrangheta, sì. E non lo dico io, lo dice il dottor Gratteri, che è uno che ne capisce. Sì. E allora marciare sui Rom, sinceramente, la vedo un poco leggermente miserabile. Un'ultima cosa. Cioè, lei dice ci sono problemi più gravi in Italia anche a livello di numeri. Oggi qualcuno ha pubblicato dei numeri sui Rom, che sono 140.000 in tutto, credo, allora, che vivano nei campi Rom, 60.000. Cioè. Sugli incidenti stradali, da motociclista, sì. E io li faccio i chilometri su strada. Le dico soltanto questa: in Italia è successa una tragedia tremenda. Un ragazzino alla guida della 200 cavalli del papà ha ammazzato il fratello e un paio di amici, di amichetti davanti al bar. Non ho visto nessun signor Salvatore come quello che ha parlato un'ora fa, che voleva mandarlo al creatore tramite i forni crematori. Allora un po' di incidenti stradali, sono incidenti stradali in tutto il mondo. Vi prego, per piacere, di non aizzare gli animi. Io non aizzo nessuno. Tu stai parlando tranquillamente, una voce diversa dalle altre. 5.000 morti sulle strade dovute all'incuria, dovute alle strade che non si fa la manutenzione, dovute a strade che fanno schifo. Lei venga nella provincia di Napoli e le faccio vedere che significa strade che fanno schifo. Allora, per piacere, gli incidenti sono incidenti stradali e vanno curati secondo me. No, ma io ho capito perfettamente quello che dici. Non mi devo far parlare, aspettate un'ora. No, indipendentemente se alla guida c'è il Rom, il ragazzino strafottente, figlio del papà che gli dà la sua 200 cavalli da 100.000 euro e carambola, questo è successo nel Cilento 5-6 mesi fa, e carambola su un bar dove uccide il fratello più figo. Allora la prego di smetterla, io lo capisco che lei ci guadagna su queste cose, ma io non guadagno un cazzo, non dire una stupidaggine. Ma non soltanto lei, tutti i talk show a marciare su questa cosa dei rom e degli edilicieri. Vabbè, ho capito. No, ma ragazzi, ma che c'entra questo? Non c'è solamente la questione dell'incidente stradale, c'è la questione della gestione dell'ordine pubblico, della gestione dei campi rom. Sono d'accordo con lei che non è che risolve il problema dei rom, risolve il problema degli italiani. È una delle cose di cui si parla ciclicamente quando accadono delle cose, punto e basta, su cui si fa normalmente campagna elettorale. Mi sembra non è una cosa bizzarra, non è una cosa strana. Certi numeri bisogna sempre ricordarli, che sono certamente inferiori a quelli di ogni altro problema che c'è in Italia, non c'è dubbio, però se è una cosa che la gente sente e che la gente, come dire, percepisce come è, bisogna anche parlarne, o no, Mimmo? Per carità. Se gliela devo dire, per cortesia. Dimmi. Io vengo da un paese della provincia di Napoli, sciolto 3 volte per infiltrazione camorristica, dove abbiamo ancora i signorotti feudali, e voi mi volete venire a parlare dei rom? Ma per piacere, noi siamo in una situazione disastrosa. Ho capito, ho capito. C'è la camorra, c'è l'andrangheta, c'è la mafia, ho capito benissimo. Ciao Mimmo, ciao, ciao. Come prima, più di prima, ti amerò per la vita, la mia vita ti darò. Allora, l'altro giorno su un palco, voi dite che mi mettete sta musica antica, vecchia. Molti di voi ragazzi che stanno qui all'ascolto non sanno niente di questa canzone qui, ma manco io in realtà, perché è un'altra generazione. L'altro giorno su un palco di un teatro milanese ho visto Tony Dallara. Tony! Eccomi! Come stai? Come stai? Bene, bene, voi tutti bene? Bene, benissimo. Beh, ma Tony Dallara, ragazzi, pensa che per carità, tocca ferro dappertutto. È il più anziano cantante vivente ad aver vinto il Festival di Sanremo 1900. Ma è così? Sei il più anziano vivente ad aver vinto il Festival di Sanremo nel 1960. Mito assoluto, certo. Di Campobasso. Ma è vero, Tony, che vuoi fare un duetto con Razzi? Ma certo, io l'ho visto l'altra sera, l'altro giorno lì sul palcoscenico insieme. Sì. E l'ho conosciuto, sono andato a fare i complimenti, che poverino mi era rimasto simpatico. Ma non dire che canta bene, tu che sei un maestro. No, ha canticchiato di dietro, come prima, più di prima, in silenzio, però. Ah, però com'è che faceva? Come prima, più di prima. Ma ce l'hai ancora la voce o no? Come prima, più come di come prima, più di prima, t'amerò. E questa è la mia. Beh, questa, questa è la tua, mia madre no. Si emozionerebbe adesso. Comunque, mia madre si emozionerebbe. Che comunque antimafia, amico mio, qui. Dimmi un po', Tony. Saluto male tanto intanto tua mamma. Comunque io voglio fare i complimenti anche a voi, perché è una trasmissione importante alla vostra da anni. Vabbè, io quando sono in macchina o in giro vi sento, viene. Senti un po', ma non ho capito, lo fai allora, vorresti cantare una canzone in duetto col signor Razzi? Ma sì, anche perché lui, io sono nato a Campobasso, Molise. Lui è invece come si chiama? Abruzzese, sì, Abruzzese di Chieti. Abruzzese, siamo lì, siamo là vicino. Quando, sì. Quando erano Abruzzo e Molise erano insieme, no? Allora il fatto di averlo conosciuto, ho detto dai, facciamo qualche spettacolo insieme giù, sia in Molise che in Abruzzo, insieme, così magari mentre. Senti, lì, Tony, tu sai lo che facciamo vedere a tutti. Certo, dimmi. Tu sai che cos'è il rap? Il rap, sì, il rap. I rapper li conosci? No? Com'è che fanno i rap? Sì, come prima, più di prima ti amerò. Come farebbe? Come farebbe il rap? Rappiamolo un po'. Come prima, più di prima ti amerò. Per la vita, la mia vita ti darò. Sempre un sogno rivederti e carezzarti. Le tue mani tra le mani stringere ancora. Il mio mondo, tutto il mondo sei per me. Capito? Così. Ragazzi, ma è ancora un mito. Ma ti rendi conto? Non ci siamo messi d'accordo, ve lo giuro. Cioè, ma giuro, è logico. Cioè, capito? Io ho detto rappa un po'. Ma te sono professionista. Ma rappa un po' più di prima, ma l'ha fatto in un secondo. Non ci posso credere. Si può fare anche l'altra. Tu sei romantica, amica delle nuvole e dei gassoni sull'amore, perché tu sei del demon. Ti dirò che tu mi piaci, le tue mani tra le mani stringere ancora. È che quando vado sento in qual giro era questa? Qual era questa? Scusami. Ti dirò, ti dirò che tu mi piaci, ti dirò, ma io ne ho tanti di successi, essendo stato primo, poi mi hanno fatto cavaliere della Repubblica. Sì, vabbè. Senti Tony, volevo dirti una cosa, ma Tony Dallara nella vita cosa ha votato alle elezioni? Dato noi abbiamo la visione che parliamo di politica. Io voto per tutti, ma voto per tutti, per quello, no, non mi fa democristiano adesso, Tony. No, voto per quello che al momento mi è più simpatico. Vabbè, ma che hai votato storicamente? Vince di più. Io voto per la musica. Vabbè, ho capito. Gli artisti, i cantanti non hanno la musica. Beh, non, oddio, ha non, è vero, non è vero, ma molti cantanti, è, molti cantanti si esprimono, dicono. Sì, dicono, ma bisogna vedere se è vero. Piano, dai, per me possono dire anche tante balle, certo. Sono contenti di dirlo. Io invece voto per tutti, perché io canto per tutti, non canto per... Senti Tony, devo chiedere, sì, devo, sono curioso di chiederti una cosa, poi ti lascio. Ma in Irlanda è successa una cosa particolare, cioè hanno approvato i matrimoni gay, i matrimoni omosessuali. Tu che ne pensi, certo, di questa roba qui? Ma... Che ne penso? Senti, il fatto di dirlo, il fatto di vederli non mi interessa. A casa loro possono fare quello che vogliono. Cioè, scusa, in che senso? Fuori dice uno schifezza, fuori. Ma no, schifezza, sono così, ma vedere, cioè, mi può far vedere così, vedere due uomini che si baciano, sì. Ti fa schifo, carino. Due uomini che ti baciano ti fa schifo un po'. No. Un po' ti fa schifo, dai, Tony. No, ma non è fatto di fare schifo. Il fatto è che possono baciarsi dopo, ma farsi vedere. In piazza io, dici, ci sono i bambini, le bambine. Cioè. Io anche con mia moglie, tanti al ristorante o cose, io non ho mai baciato, mentre si pubblico bisogna stare tranquilli, insomma, bisogna stare fare tranquilli. Le cose che bisogna fare. Ma tu come li chiami? Basta. Come li chiami? Io Froci. No, io gay, così devo chiamarli. Gay. No, ma guarda che Froci mica in senso dispregiativo. Ma guarda, no, no, ma guarda che gay in milanese vuol dire soldi, eh. E due, che vuol dire? Ah, sgay, no, quello è sgay in Veneto. No, no, sì. gay. Tu gay vuol dire che hai i soldi. Gay vuol dire soldi in milanese. Ma hanno milanese. I soldi, secondo te i gay hanno i soldi? Sono una lobby pazzesca, diciamo la verità. Forse, non lo so, beati loro se li hanno. Non ti piacciono tanto gli omosessuali a te, non ti stanno molto simpatici. Non mi piacciono, non mi interessano. Non ti interessano proprio. Ma c'è un po', secondo te sono un po' malati che omosessuale, no, contro natura? No. Ma guarda, allora, quando si dice di che una persona che è gay, sì, è perché anticamente un avo sarà stato senz'altro gay. Cioè? Non è che si nasce così tanto. Cioè, una cosa che si trasmette nel... Certo, cioè, senz'altro nella sua storia nel DNA c'è stato un gay, e così dopo varie generazioni possono nascere, perché uno ci nasce, non è che dice vabbè, poi ci sono quelli che vogliono diventarlo per interesse, ma quelli veri ci nascono. Ma per interesse che vuol dire per interesse? Non lo so. Per guadagnare soldi, per non so. Dici perché è comodo essere gay, ogni tanto è comodo fare gay. Sono cose loro. No, ma questa cosa qui del DNA è interessante. Cioè, tu dici degli avi. C'è stato qualche avo nella loro famiglia che era gay. Anticamente ce n'erano magari un sacco, però non è che si notavano. Per cui è una specie di cosa che si tramanda, una specie di malattia che si tramanda. Come la possiamo definire? Beh, no, un vizio. No, un vizio, un vizio per quelli che lo fanno per comodo, ma loro no, se nascono così, che dobbiamo cavolo fare? Ci devi fare? Che devi fare? Non puoi mica ammazzarli. A te non ti piace l'uccello, diciamo, no? Perché no. no, assolutamente. E se qualcuno ci prova con te, che fai? No, non ci ha mai provato nessuno, perché loro sanno chi è uno e chi è l'altro. Ah sì, riconoscono dall'odore, quasi, dall'odore. Ma che ne so da che cosa. Ma tu il matrimonio lo faresti o no, il matrimonio gay? No, ma io no. Carità, lo riconosceresti il matrimonio? No, per carità. E l'adozione? Ma no, i bambini no. Ma no, poi non parliamo di bambini, che sono la cosa più bella al mondo, per carità. Ma se tuo figlio nascesse, tu hai figli, quanti figli hai? Due figlie. E se a un certo punto una di queste ti avesse detto io sono lesbica, che avresti fatto? Pazienza, che cavolo ci può fare? Non può mica ammazzare. E che ne so, magari la portavi dal dottore, che ne so. Perché nei miei avi non c'è stato nessun avo. Ah, questo, gli avi. Come prima, più di prima, ti amerò. Un abbraccio, ciao Tony, a presto, ciao. Grazie, ti adoro, ciao. Il rap è stato geniale. Dove andiamo? Andiamo a casa adesso. Aspetta, Rocco da Roma. Sono molto stanco e provato. Sì, lo so, sei provato, lo so. Buonasera, Franco. Buonasera. Sono provato da quella persona schifosa. Vabbè, ma no, adesso, tranquilli, dai, Rocco, vai. No, Giuseppe, ciao, buonasera. Vai. Buonasera. E io volevo, visto che la trasmissione è importante, seria, con due personaggi nazionali, pubblici. Sì. ti volevo raccontare un episodio molto importante. Sì, però vai veloce, Rocco. Vai veloce, vai veloce, Rocco, perché sì, Parenzo si è rotto i coglioni e dobbiamo chiudere, vai. No, no, niente, dobbiamo parlare di cose così serie, brutte, rom, non rom. Voglio parlare di un episodio che mi è successo stamattina. Cioè? Stavamo facendo l'amore io e la mia fanciulla. Sì, state facendo mentre, l'amore? Sì. Mentre non ridere, amore. No. Gli è scappata una scoreggia. Gli è scappata una scoreggia mentre faceva dell'amore? Bello. Mi sono ricordato di te, Peppi. No, non ho capito, aspetta, passamela un attimo, passamela. Ma, aspetta, che tipo di scoreggia era, scusa, spiegami. Era una, no, non era una scoreggia con vestito, era un Alfonso. Una? Non ridere pure. Una? Un Alfonso. Ecco, una cosa del genere. Ma non ho capito, ma di che tipo, non ho capito, ma bene, da dove è stata emessa questa scoreggia, da dove è venuta fuori? Passamela un attimo, passamela. Pronto? Sì, no, ma sei sempre tu, dai, passami lei. Come si chiama? Antonella. Antonella, dai, forza, Antonella, vieni. Un secondo. Dai, Antonella, su, raccontaci questa cosa, molto simpatica, molto bella, molto anche gentile, molto carina, molto molto molto molto sottile, anche molto, no, fra Parenzo, molto no, di grande spessore o no? Ma un po' spessore. Antonella, vai, sì. Antonella. Non vuole parlare Antonella. Vabbè, Rocco, io ti richiamo la settimana prossima perché Antonella mi deve raccontare della sua scoreggia mentre fa sesso con te. Ci sentiamo lunedì 18:30. Ciao, viviamo e lottiamo insieme a voi. Intanto vi benedico e vi esorcizzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Cruciani e paracuro. Radio 24. La passione si sente.